l'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi. I fratelli Lee erano quattro, ma questa storia riguarda solo tre di loro: Michael, Jim e Danny. Erano di Toowoomba, una cittadina che oggi è abitata da circa 130.000 persone. Si trova in Australia, nella regione del Queensland. I tre fratelli avevano un'impresa dedicata al recupero dell'oro, miniere, grandi impianti per filtrare l'acqua dei fiumi. Verso la fine degli anni 20 del secolo scorso, i tre lì ebbero l'idea che in Papua Nuova Guinea, la grande isola che sta a nord dell'Australia, un territorio grande una volta e mezza l'Italia, fosse il caso di andare a vedere se c'era dell'oro. Papua ha fiumi che scendono dall'altopiano centrale verso il mare. Michael, Jim e Danny organizzarono una grande spedizione per esplorarli, sbarcando nell'isola con mezzi ingenti e con un velivolo per sorvolare il territorio e recuperare così indicazioni importanti sui percorsi da intraprendere per addentrarsi all'interno. Si vedono centinaia di portatori ingaggiati tra le popolazioni indigene locali apparire nelle foto e nei filmati che i Lee ci hanno lasciato e dei quali parleremo tra poco. L'idea di risalire i fiumi verso l'interno aveva uno scopo evidente, cioè quello di trovare più oro di quello che poteva giungere a valle. In quegli anni si pensava che il grande altipiano di Papua fosse un'area deserta, occupata da foreste. I tre australiani scoprirono, e i conti si fecero in seguito, che invece era abitata da circa 1 milione di umani, popolazioni che non avevano mai incontrato l'uomo bianco. È corretta questa definizione perché fino a poco tempo fa vivevano indigeni degli altipiani che si ricordavano perfettamente quei giorni del 1930 nei quali avvenne il primo contatto, e descrivendo quegli avvenimenti loro parlavano dell'uomo bianco. Loro erano scuri, molto simili agli aborigeni australiani, e quando videro per la prima volta i bianchi della spedizione furono molto stupiti da quel colore della pelle, raccontò uno di loro negli anni 50. Non sapevamo se erano uomini venuti dal cielo o da qualche altra parte. Non avevamo mai visto gente con quella pelle e ci decidemmo che venivano dal cielo. La provenienza celeste fu ovviamente motivata con forza dalla presenza dell'aereo. Il primo incontro fu con la spedizione guidata dai tre fratelli, in cui lunghe file di portatori procedevano a piedi sull'altopiano. Qui emerse il grande stupore bianco. Fu scelta una zona per accamparsi, un'area che avesse un prato piano su cui potesse atterrare un aereo. Ecco il momento magico. La gente degli altopiani, un paio di giorni dopo il primo contatto, vide un grande uccello apparire in cielo. Lo videro scendere a terra e dal suo corpo apparire dei bianchi, come quelli che avevano già visto. Era un piccolo aereo, un monomotore che portava 2 o 3 persone, ma bastava e come per generare profonda impressione. Mesi per quella gente di grandi e continue emozioni, segnati da centinaia di interpretazioni di tutto quanto vedevano fare da questi figli del cielo. Si racconta, tanto per avere un'idea di quanta fosse la diversità da scoprire, che i maschi della tribù temevano che la cintura indossata dai bianchi per reggere i pantaloni fosse un pene estraibile che poteva aggredire le loro donne. Ci si accorse subito però che queste popolazioni, mai raggiunte da altri umani, presentavano un significativo tratto comune. Si facevano guerra in continuazione. Divise in tribù di circa 1000 individui, la loro conflittualità era permanente. Chi ha studiato con attenzione le conseguenze numeriche di tale violenza è riuscito a ricavare che, in proporzione alla popolazione di ogni singola tribù, le vittime dei conflitti erano superiori alla media dei nostri, cioè dei conflitti dell'ultimo secolo. La presenza di civilizzati, usiamo questo termine per brevità, sebbene l'immagine del buon selvaggio sia da tempo alquanto sbiadita, crebbe rapidamente a partire dal 1930. Iniziarono rapporti con le cittadine della costa guineiana, basati su attività agricole, e prese anche a svilupparsi un flusso moderato di gente degli altipiani, che andavano a lavorare nelle fattorie delle pianure. Arrivarono anche le missioni religiose, cattoliche e luterane. La conflittualità tribale, tuttavia, non si spense. È vero che progressivamente gli esseri provenienti dal cielo furono interpretati come un popolo terrestre, un popolo che comunque manifestava una potenza indiscussa e insuperabile, e così molti locali divennero laicamente collaborativi. Ma questo processo richiese alcuni anni e molte tribù mantennero il loro stato di guerra reciproco, che durò fino al 1940 circa. Alcuni antropologi studiarono le ragioni della conflittualità permanente, ricavandone prove per affermare che essa non dipendeva mai da desideri di conquista di territori o da specifici eventi come, che ne so, furti di bestiame. L'unica motivazione era un continuo sentimento di vendetta tramandato nel tempo, e quindi per migliaia di anni si è stabilito che la presenza di umani in Papua risalga a 11.000 anni fa. In breve, c'era sempre qualcosa da ricordare che facesse dire: dobbiamo vendicarci. Nel 1940 ne arrivò una bella grossa di guerra, quella mondiale. Le forze alleate si insediarono in Papua per costruire un'importante base contro i giapponesi. Anche gli altipiani furono occupati in più zone, e questo segnò un definitivo passaggio alla contemporaneità. Arrivarono i denari, quelli di carta e le monete, niente di più trasformativo per chi fino a pochi anni prima viveva in una condizione quasi esclusiva di raccoglitori e cacciatori. In conclusione, vi diciamo che su YouTube, digitando First Contact Papua, cioè il primo contatto Papua, si trova un documentario degli anni '80 prodotto da due australiani, Bob Connolly e Robin Anderson, nel quale appaiono i filmati che i tre fratelli australiani girarono nei giorni del primo contatto, ed è veramente un documento unico. Il progetto scientifico internazionale si chiama Seabed 2030, ha mappato il 20% dei fondali oceanici, e l'obiettivo è mapparli tutti. Una bella impresa che però si può fare, sebbene appaia sorprendente. Ce la racconta Andrea Caiti dell'Università di Pisa, dove insegna robotica e sistemi subacquei, e anche di ISBE, che è il coordinamento dei vari centri di ricerca sul mare, in particolare nella robotica, che mette insieme 9 università italiane. Andrea Caiti, benvenuto. E grazie, saluti a voi tutti. Allora, partiamo da questo Seabed 2030, questo progetto scientifico internazionale. Intanto, quali istituzioni coinvolge? È un bel progetto davvero ampio. Sì, è stato lanciato dalla Nippon Foundation, che è una organizzazione non profit giapponese, e da JEBCO, che è il progetto per la mappatura dei fondali stabilito dall'Organizzazione Idrografica Internazionale, che ha sede nel Principato di Monaco, e dalla Commissione Intergovernamentale Oceanografica dell'UNESCO. Cosa significa mappare l'oceano? Sì, mappare l'oceano significa creare una carta batimetrica, quindi della elevazione dei fondali su tutto l'oceano. Fino al 2014-2015 questa mappa dei fondali era nota soltanto per il 9% di tutti i fondali degli oceani, con una risoluzione di un chilometro per un chilometro. Che cosa vuol dire? Che se pensiamo a questa mappa di elevazione come a un'immagine con dei pixel, ogni pixel corrisponde a un chilometro quadrato di superficie. Che è un po' tantino. Che è un po' tantino, perché non è che sia una cosa particolarmente accurata. Allora, nel 2017, con la Nippon Foundation, JEBCO ha lanciato questo progetto Seabed 2030 per arrivare nel 2030 a una mappatura completa dei fondali attraverso l'utilizzo di uno strumento che si chiama ecoscandaglio multifasce, multibeam e con risoluzioni decisamente migliori rispetto a quella del chilometro per chilometro. Quanto si arriva? I proponenti hanno fatto uno studio molto accurato, diciamo che la risoluzione dipende da quant'è la profondità media del fondale con questi strumenti. Se la profondità è 1000 metri vogliono arrivare a una risoluzione di 70x70 metri, quando siamo a 3000 metri la risoluzione diventa 200x200 metri, a 6000 metri siamo nell'intorno di 400x400, fino alle profondità di 9000 metri dove la risoluzione è 700x700 metri. Però Caiti, qui siccome parliamo di mappe siamo rimandati all'idea che si dovrà vedere qualcosa di questi fondali. Cos'è che vediamo esattamente? Cioè qual è il dato che si riceve? Ma il dato che si riceve è quello della profondità al di sotto dello strumento che sta effettuando la misura. Che cosa vuol dire? È una mappa di elevazione, non ci dice che tipo di fondale c'è sotto, se c'è sabbia, se c'è roccia, se è un vulcano sottomarino, ma ci dice quanto è alto. È un pochettino come mappare l'altezza delle catene montuose, che so, delle Alpi per esempio. Ecco, si è dato questo ambizioso obiettivo, cioè tutti gli oceani nel 2030, ma sembra un'impresa titanica, ma sarà possibile davvero realizzarla? Dunque, è un'impresa sicuramente molto ambiziosa e il modo con cui viene condotto il progetto però è, a mio parere almeno, un modo molto intelligente, e cioè è un progetto che cerca di sfruttare il più possibile la cooperazione di altri enti, anche di navi di occasione, quindi anche di navi commerciali. Per esempio, quando si fanno ricerche scientifiche per altri motivi, le navi oceanografiche che vanno in una certa zona di mare in genere fanno comunque una misura batimetrica preventiva del loro operazioni, e quindi il progetto chiede a queste organizzazioni terze di mettere a disposizione i loro dati dando questi requisiti di qualità. Caiti, perché è importante avere questa mappatura? Ma perché questa mappatura è un prerequisito per qualsiasi altro tipo di esplorazione che vogliamo fare sui fondali. Se posso fare un esempio, per certi versi anche un po' drammatico, però probabilmente molti di voi o molti degli ascoltatori ricordano dell'aereo scomparso nell'Oceano Indiano 4-5 anni fa, credo nel 2014, in cui diciamo le ricerche successive sono state fatte in un'area la cui profondità era totalmente sconosciuta. Si è cercato l'aereo per vedere se fosse caduto in mare, dove fosse caduto, si è fatto questo con robot subacquei, e però in assenza di qualsiasi tipo di informazione batimetrica, quindi sulla elevazione del fondale, la pianificazione delle missioni per questi robot era particolarmente difficile. Un po' come dire, devo sorvolare le Alpi da Aosta a Bolzano, ma non conosco le elevazioni delle varie vette di tutta la catena. Ecco, questa è un'operazione complicata, si rischia di andare a sbattere chiaramente. Chiarissimo, chiarissimo. Va bene, grazie Caiti, davvero un buonissimo lavoro anche per le sue ricerche. Grazie. Però penso che se tutte le navi che solcano gli oceani si dessero da fare, forse questo progetto si riesce a concludere rapidamente, no Chiara? Sì, tutti dovrebbero fare il proprio. Mi sembra che questo progetto vada proprio in quella direzione, nel coinvolgimento di tutti. Va bene, per oggi è tutto. Noi ci sentiamo presto con una nuova puntata di Darwin. Tutte le scorse puntate le trovate sul sito di Radio 24. Ciao Federico. Ciao Chiara, un saluto a tutte e a tutti. Darwin, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.